Non è colpa mia se anche la mia vicina mi urla fuori dalla finestra. Non è colpa mia se la notte non dormo, entri nella mia testa. Vorrei stare calma, mi irrito facile, è colpa dell'alta tensione. La colpa di chi poi ci giudica sempre per avere ragione. Mentre perdo l'equilibrio so cosa è meglio per me. Scaglia la prima pietra se sei così innocente come dici a tutti di essere. Non mi credere se ti dico cambio per te il mio carattere. Fa scintille nel fuoco, vedo rosso per colpire, corro verso te. Scappa baby adesso sulla tua moto. Se impazzisco per te, tu mi hai fottuto la testa. E non è colpa mia se creo problemi, dico ciò che penso. Forse non è colpa tua, sei troppo equilibrio, cadi a pezzi. Non mi credere se ti dico cambio per te il mio carattere. Fa scintille nel fuoco, vedo rosso per colpire, corro verso te. Scappa baby adesso sulla tua moto. Taurus, Taurus, Taurus, Taurus. E non è colpa mia se creo problemi, dico ciò che penso. Forse non è colpa tua, sei troppo equilibrio, cadi a pezzi. Non mi credere se ti dico cambio per te il mio carattere. Fa scintille nel fuoco, vedo rosso per colpire, corro verso te. Scappa baby adesso sulla tua moto.